Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Oggi, come preannunciato sin da ieri e poi a furor di popolo per molte vostre richieste in proposito, si comincia dalla fine, e cioè si comincia dalla rubrica di Nicola Filipponi, il cui titolo sembra ieri mai come oggi suona appropriato. Sembra ieri. 3 settembre 1989. La domenica sera degli appassionati di calcio viene scossa da una notizia raggelante. Il conduttore della domenica sportiva Sandro Ciotti annuncia la scomparsa di Gaetano Scirea, a soli 36 anni. Il campione juventino, diventato assistente del suo grande amico Dino Zoff sulla panchina bianconera, è tra le vittime di un incidente stradale in Polonia. La macchina su cui viaggiava lo stava riportando all'aeroporto di Cracovia. Rientrava a casa dopo aver visto una gara del Górnik, avversario della Juve nel primo turno della Coppa UEFA. Gli uomini di Zoff onoreranno la memoria di Scirea vincendo contro i pronostici quell'edizione della Coppa UEFA. E in quell'epilogo di stagione felice, il vuoto lasciato da Scirea sarà avvertito ancora più profondamente. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno scritto per sollecitare un ricordo di Scirea, per offrire a loro volta una testimonianza. Ne ho lette di bellissime, cito Stefano Nanni, cito Tommaso Tagliaferri, da Latri che ho qui sotto il naso, cito Stefano Corsi, Alberto, non vado avanti perché potrei fare un elenco sterile. Ho selezionato per voi anche qualche buona lettura, antica e recente, una lettura dell'epoca, per esempio il coccodrillo, così si chiama in gergo, che apparve l'indomani a firma di Gianni Mura. A Scirea, vi leggo l'ultima parte, a Scirea, studente a Coverciano, un collega aveva chiesto qualche mese fa un'occhiata sul futuro. Mi basta continuare a essere quello che sono e chiedo solo un po' di salute, aveva risposto. Tutto questo non ha più senso, solo il dolore ha un senso. Tutti noi che abbiamo frequentato Scirea per lavoro l'abbiamo amato e rispettato, il contrario era impensabile. Domani ci sarà sui campi un minuto di silenzio per ricordarlo. Un minuto è poco, ma vorrei che fosse davvero di silenzio, senza applausi, senza cori. A lui non sarebbe piaciuto. Gaetano non era di quelli che battono le mani ai morti. Avrebbe abbassato la testa, come si usa nei paesi ancora oggi, e avrebbe pianto. E solo questo per lui possiamo fare, ed è poco. Nulla per la sua vita così bella e chiara, per la sua morte così brutta e assurda. Pensate, già più di 20 anni fa si usava applaudire quando diciamo che abbiamo dei costumi che si stanno deteriorando. Beh, questo degli applausi ai funerali è evidentemente un deterioramento antico, se già 20 anni fa Mura scriveva queste righe. Adesso vi offro una testimonianza di repertorio vera, perché insomma la camera del ritiro di Zoff e di Scirea, che hanno sempre convissuto sia nella Juventus che in Nazionale, era stata ribattezzata dalla linguaccia di Tardelli la zona del silenzio, sicché cercare una voce di Gaetano Scirea, una testimonianza vocale, non è stata un'impresa facile. Abbiamo un frammento di una ventina di secondi, per cui ringraziamo Juventus Channel, il canale tematico della società che ce l'ha gentilmente messo a disposizione. Si riferisce, risale al 9 febbraio 86, Scirea festeggiava le 500 presenze in maglia juventina proprio a Bergamo contro l'Atalanta, la squadra che l'aveva lanciato. Finì quel 0-0 con la partita, sentiamo, credo non senza una grande emozione, la voce di Gaetano Scirea. Sì, mi fa molto piacere festeggiare la 500ª partita con la maglia bianconera proprio qui a Bergamo, in quanto qui sono cresciuto, ho dei bellissimi ricordi. Io penso che lo sappiano tutti, e la voglia non mi è mai mancata, la voglia c'è sempre stata, e io penso che i risultati di quest'anno che sta facendo la Juventus stiano a testimoniare tutto quello di buono che ancora vogliamo fare. Era un uomo, ha scritto lo scorso lunedì, anzi ha detto lo scorso lunedì in una bella intervista a Maurizio Crosetti, Dino Zoff, il suo sodale più fedele negli anni di Juventus e di Nazionale. Vi leggo una parte cospicua di questa conversazione di Crosetti con Zoff, che ne vale davvero la pena. Dice Zoff: era un uomo, era il suo stile, non era la forma, era lo stile, era serenità, chiarezza e pulizia. Era convincente anche quando si arrabbiava, così di rado, non perdeva mai il controllo. Una persona sempre misurata, diceva solo cose autentiche e ponderate. Arrivava dall'Atalanta, lo avete sentito, un ragazzone taciturno, buonissimo. All'inizio mi sembrava troppo perfetto per essere vero, perché a volte i timidi appaiono meglio di quello che sono, e questo vale anche per me, dice Zoff. Invece era davvero così sincero e puro, senza sovrastrutture, aveva il pudore delle parole, così raro, a maggior ragione oggi in mezzo a questo boato. Mai un'espulsione, gli fa notare Ricorda Maurizio Crosetti, perché è vero, nonostante giocasse da difensore, mai un'espulsione, eppure giocava in difesa. Gli bastava la classe e la pulizia del gioco. Io non ho mai visto, ricorda Zoff, uno così elegante con la testa così alta, e questo vale nel mio piccolo anche per me. E la purezza del tocco era purezza morale. Questi sono uomini che magari non segnano un'epoca perché non gridano, ma quanta ricchezza. Cosa accadde, domanda Crosetti a Zoff dopo la vittoria di Madrid, la finale mondiale intende. Ero rimasto allo stadio più degli altri per le interviste e tornai in albergo non con le guardie del corpo, come succede oggi, ma sul furgoncino del magazziniere. Gaetano mi aspettava, mangiamo un boccone, bevemmo un bicchiere. Ci sembrava sciocco festeggiare in modo clamoroso, mica si poteva andare a ballare, sarebbe stato come sporcare il momento. Tornammo in camera, mi viene in mente l'Hollywood, no? E il noto, il modo in cui oggi i fenomeni di oggi festeggiano. Tornammo in camera, ci sdraiamo sul letto sfiniti da troppa felicità, però la degustammo fino all'ultima goccia. Niente come lo sport sa dare gioie pazzesche che durano un attimo e bisogna farle durare nel cuore. Eravamo inebetiti, estasiati da quella gioia. Zoff, lei pensa spesso al suo amico. Gaetano torna sempre, lo pensa a ogni esagerazione di qualcuno, a ogni urlo senza senso. L'esasperazione dei toni mi fa sentire ancora più profondamente il vuoto della perdita. Gaetano mi manca nel caos delle parole inutili, dei valori assurdi, delle menate, di questo frastuono di cose vecchie col vestito nuovo come canta Guccini. Mi manca tanto il suo silenzio. Una delle più belle interviste che abbia letto negli ultimi anni, merito di Maurizio Crosetti, ma merito anche e soprattutto direi di Dino Zoff. E chiuderei questo ricordo di Scirea con le parole non recentissime, anche se stamane la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un ricordo di Enzo Bearzot, parole un po' più antiche di Enzo a proposito di Scirea. Un vero pezzo unico, disse Bearzot una volta, la perfezione in campo e fuori, signorile, corretto, di una modestia incredibile, era già un campione, che campione, eppure solo a rivolgergli la parola ancora lo vedevi arrossire. Lui sì sarebbe stato l'uomo simbolo ideale per la nazionale, in qualsiasi ruolo o incarico, perché ha rappresentato un modello da tutti i punti di vista, tecnico, stilistico e comportamentale. La prima volta che stette in ritiro con me a Lisbona, con l'Under 23, dissi che un ragazzo così era un angelo piovuto dal cielo. Non mi ero sbagliato, ma lo hanno rivoluto indietro troppo presto. Torniamo in studio, nel frattempo mi ha raggiunto dal piano soprastante del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Buongiorno. Dunque gli spunti di riflessione, ma soprattutto di conversazione non mancano, non è facile dopo il ricordo di una persona, non personaggio, attenzione alla differenza non sottilissima, di una persona e di un campione come Gaetano Scirea, però insomma ci sono alcuni spunti di attualità, te ne sottopongo a bizzeffe. Allora stamane la Gazzetta dello Sport ha pubblicato tutti gli stipendi di allenatori e giocatori della Serie A, e sono cifre di cui non è lecito dubitare, e insomma mi pare che qualche riflessione l'autorizzi. Mi sono arrivate, grazie al solito Nicola Filippone, un paio di tabelle estere da cui risultano dati significativi, per esempio che il Real ha speso quello che ha speso in estate, però è anche a quota 92 milioni e mezzo di realizzi, gli Snyder, i Robben, finché ce n'è, quindi no, non coprirà mai, ma insomma un po' di rientro, e anche lì mi piacerebbero tue considerazioni. In Inghilterra è curioso che il Manchester City sia stata la squadra che ha speso nettamente di più, e quella che invece ha incassato nettamente di più siano i cugini, cioè sia il Manchester United, avendo venduto per l'appunto non solo Cristiano Ronaldo ma anche Tevez. Ha fatto dei passi avanti nelle ultime settimane la famosa proposta Platini, tendente a una maggior pulizia di bilanci eccetera eccetera, ma poi arriviamo all'argomento clou, perché ha fatto molti passi avanti invece la vicenda della tessera del tifoso, ed è quella che in questo momento io credo interessi di più agli italiani. Allora, qualche riflessione su questi stipendi del pallone. La Gazzetta fa notare giustamente che per la prima volta nella storia del calcio italiano la pedina più pagata in assoluto del campionato non è più un giocatore, ma è un tecnico con gli 11 milioni di euro di Mourinho. Netti è, perché non parliamo sempre di Netti, che non stiamo lì a perdere tempo con i lordi. Mi vengono due riflessioni da fare partendo proprio dall'ingaggio milionario di Mourinho. Il fatto che gli altri colleghi non solo dovrebbero essere invidiosi, ma anche fare una petizione sindacale, perché quello che guadagna dopo guadagna un decimo di Mourinho, visto tra l'altro che Ancelotti ormai è al Chelsea e Spalletti si è dimesso, gli altri insomma hanno ingaggi decisamente inferiori. Mi pare che sia 1,8 Prandelli, se non sbaglio, al secondo posto. Saltati 2 milioni di Spalletti circa, mi pare che il secondo sia Prandelli a 1,8 e poi a 1,2 ci sono Leonardo, Ferrara e forse qualcun altro. Credo anche Donadoni. Anche Donadoni, esatto. Anche Donadoni, esatto, ha raggiunto questa quota che, ripeto, è un decimo di quanto guadagna Mourinho. Peraltro l'Inter è costretto anche a versare i 6 milioni a Mancini, visto che il contratto non è stato ancora risolto. E quindi i 17 milioni complessivi che Moratti paga ai tecnici, non netti, solo sempre. Netti, sempre netti, non solo rappresenta una cifra che supera l'intero monte ingaggi di circa 6 o 7 squadre italiane di Serie A. Monte ingaggi riferito sia allo stipendio dell'allenatore, ma anche a quello dei calciatori. Oh, guarda, se ti interrompo un istante, facciamo in fretta, perché qua abbiamo per l'appunto il monte ingaggio di tutte, grazie a queste tabelle della Gazzetta. Allora, il Chievo costa 13 milioni, l'Atalanta costa 13, il Livorno 14,3, e quindi queste tre costano meno di quello che costa allenare l'Inter, no? Mourinho più Mancini. 17,5 col Siena, siamo già invece fuori. Siamo quindi già... Siena costa già leggermente più di Mourinho e Mancini, per ma dire. In ogni caso mi sembra appunto un elemento irrazionale nella gestione dei costi delle società, visto tutto quello che... è partito con la UEFA grazie a Platini. Non dimenticare che se non arrivavano i due, l'anno scorso ne guadagnava 9 Mourinho, se non arrivavano i due d'aumento andava a Real Madrid, perché come si è poi saputo Real Madrid gli ha fatto una corte spietata, no? Ricorderà la dichiarazione di Florentino Perez, mai cercato, però comunque 2 milioni in più sono arrivati. Questo ci porta al fronte europeo, a questa estate folle che molti hanno individuato nella campagna acquisti del Real Madrid, 250 milioni per creare una squadra in nuovi galattici, sì. E pochi hanno però considerato il fatto che Florentino Perez è uno che i soldi li ha fatti, gli affari li sa condurre, e grazie a delle cessioni mirate di calciatori passati in secondo piano a quel punto nella gestione della squadra, mi riferisco appunto a Snyder o a Robben, che è andato al Bayern Monaco, è riuscito a incassare ben 90 milioni di euro. Questo gli consente peraltro di preparare una campagna acquisti ancora più ricca, perché tra qualche giorno Florentino Perez porterà al, diciamo, chiamiamolo consiglio di amministrazione, non proprio quello, ma comunque all'ente che dovrà poi decidere la prossima campagna acquisti, il prossimo budget per la campagna acquisti di Real Madrid, un piano da oltre 400 milioni di euro, addirittura di più. Non so chi potrà comprare più, perché a parte Ibrahimovic forse strappare e Messi, però non mi sembra ci siano tanti campioni da poter comprare. Questo perché bisogna fare i complimenti insomma alla gestione del Real Madrid, in quanto da sponsorizzazioni, nuovi contratti con le TV, tournée e gestione di uno stadio che garantisce 140 milioni all'anno, gestione dello stadio, riuscirà appunto a coprire queste spese. Quindi non solo è il club più ricco d'Europa, quello con i giocatori più invidiati, a parte qualcuno che gioca qui e là in Europa, ma è anche un club finanziariamente in linea con le prossime indicazioni che arriveranno dalla UEFA. Io da un punto di vista critico calcistico non la vedo così, o meglio, la vedo così per come è ridotto il calcio di oggi. In realtà, comprando le figurine e le più care, se il custa, no? Come diceva una volta il buon Borghi, ma stiamo parlando di un'altra epoca e di un'altra ottica soprattutto, comprando tutte queste figurine in realtà non solo non è detto che tu vinca, ma probabilmente ti complichi la vita in questo senso, perché sono tutti nuovi o quasi tutti nuovi, sono tutti fenomeni o presunti tali da assemblare, bisogna vincere le gelosie, cioè non è così che si costruisce una grande squadra, tant'è vero che il Barcellona l'ha fatta in tutt'altra maniera. È vero però quello che ci stai dicendo tu, ed è una riflessione preziosa per capire che deriva ha preso il calcio, è vero che se tu oggi ti comporti così, cioè da paperon de paperoni, senza alcun raziocinio calcistico, il mercato ti premia. Questo mi pare di capire. Assolutamente, c'è bisogno di, come dire, saper gestire ormai gli atleti come veri e propri asset patrimoniali, mm-hmm. e quindi acquistarli a un prezzo che si ritiene opportuno, ma anche saperli vendere nel momento giusto. Certo. E Florentino Perez, ripeto, che è stato criticato da tutti nella sua quasi insensata mania di acquistare figurine o campioni o di strapparli da altre squadre, ma è stato anche capace di piazzare. Ecco, invece da quel punto di vista, cioè dal punto di vista economico, finanziario, tu ci stai dicendo che non è affatto un irresponsabile. Assolutamente no. È vero che Real Madrid ha oltre 500 milioni di debiti con le banche e con vari istituti che lo hanno che hanno finanziato in questi anni la gestione del club, ma è anche vero che il Real Madrid ha un giro d'affari di oltre 360 milioni di euro, produce pochi utili per anno, ma li produce, in ogni caso riesce a mantenere quell'equilibrio finanziario che è quello che vuole Platini, che è quello che sarà imposto da qui al 2013 a tutti i club europei. Ecco, allora, dato che abbiamo un paio di minuti e che poi nella seconda parte vorrei parlare di invece di tessere del tifoso e vorrei ospitare anche qualche intervento del pubblico, leggo dai messaggi che insomma, Scirea non è passato in vano, quindi qualcuno probabilmente vorrà a sua volta esporre un ricordo o comunque soffermarsi ancora su quel gigante della storia del nostro calcio. Allora, in buona sostanza, che passo avanti ha fatto la riforma Platini in quest'estate, in questi ultimi giorni? In questi ultimi giorni si è avuto un importante riconoscimento da parte di tutti i club europei che hanno accettato il piano. Il prossimo 14 e 15 settembre a Nyon, ormai siamo lì, il consiglio esecutivo dell'UEFA dovrà approvare il piano. È passato il principio del fair play finanziario, poi avremo modo magari in qualche altra puntata di andarlo a vedere più nel dettaglio, sì, questo è interessante. Questo cosa comporterà, anche perché poi le regole dovranno essere scritte dai vari rappresentanti dell'UEFA, dei club. È singolare come questa campagna moralizzatrice sia stata condotta da due grandi miti del calcio degli anni 80, Platini, che è a capo della UEFA, ma anche Karl-Heinz Rummenigge, che è il vertice del Bayern Monaco, ma anche dell'associazione dei club europei, e che ha sposato in toto questa strategia. Vedremo nei prossimi mesi poi esattamente in cosa si tradurrà. Resta lo scenario, cioè nei prossimi tre anni si dovrà realizzare questa sorta di Maastricht del calcio europeo, si dovranno riequilibrare i conti e i club che non lo faranno saranno sanzionati fino addirittura all'esclusione dalle competizioni europee. Mm-hmm. Beh, questo indubbiamente non è poco. E andremo anche al dettaglio di quello. Un minuto circa per questo strano rientro del Manchester United, che nella classifica di chi ha incassato di più è seguito dall'Arsenal, quindi vuol dire che tutte e due hanno attuato un progetto, insomma hanno attuato un percorso virtuoso in estate. Però mi ricorda un po' quello dell'Inter, cioè se tu prendi oggi il bilancio di quest'anno, il bilancio limitato a quest'ultimo mercato dell'Inter, c'è indubbiamente un saldo attivo. Vale per il Manchester, vale per l'Arsenal, ma dietro no, ci sono il Manchester tonnellate viaggiava di... e viaggia su oltre 700 milioni di debiti, per cui come dire, l'inversione di tendenza nella spesa e nella campagna acquisti era quasi un atto dovuto, quello che prima o poi dovrà fare anche il Chelsea, che anche lì viaggia, siamo sugli 800 milioni di euro di debiti, sono i due club più indebitati. L'Europa, come dire, si sta adeguando forse come noi e prima di noi alle nuove strategie economiche che Platini imporrà. L'Italia con il Milan e l'Inter ha invertito la rotta, resta il fatto che anche in Italia ci sono squadre come l'Inter e il Milan che possono permettersi 150 milioni di ingaggi e squadre che giocano nella stessa serie e che ne possono spendere 13, 15, 20 al massimo. 13, che lo dicevamo prima guardando queste tabelle, 13, 13, 14, 13, 17, 5 eccetera, è quello che costa la guida tecnica della panchina nerazzurra tra chi c'è e chi c'era, ma è tuttora a libro paga. Chiudiamo qui la prima parte. Nella seconda, vi ripeto, la tessera del tifoso con le novità non piacevolissime, mi pare, da un punto di vista burocratico per i tifosi. Lasciamo stare, parlo di tifosi normali, parlo di tifosi per bene, non molto piacevoli, e i vostri interventi su questo o magari sul grande e indimenticabile Gaetano Scirea. Torniamo in onda in compagnia di Marco Bellinazzo, attendo anche i vostri interventi, ne sono arrivati tantissimi iscritti sul display. Paolo da Torino, tifoso juventino, dice: mi dispiace soltanto che una curva intitolata Scirea sia frequentata da così tanti energumeni, e ha perfettamente ragione. Cioè, io mi ricordo che Berzotto anni fa chiese di ritirare la maglia numero 6 di Scirea alla Juventus, ne ebbe una rispostaccia da Moggi, perché sono sempre i galantuomini poi che decidono, no? queste pratiche. Adesso, proprio oggi, la maglia numero 6 di Scirea è tornata all'attualità perché è stata assegnata a Grosso, un altro campione del mondo, e Mariella Scirea, la vedova di Gaetano, si è dichiarata molto felice del fatto che la maglia continui a circolare e tocchi ad un altro campione del mondo. Ma che davvero sia intitolata a Scirea una curva così mal popolata e così mal frequentata, questo è indubbiamente un stride è dir poco con la classe, la signorilità, l'educazione che Scirea ha sempre provato ad impartire anche agli avversari, non soltanto ai compagni. Figuriamoci, una volta che scoppiò una mezza rissa in campo in un Fiorentina Juve, e lui prese due o tre dei suoi e mi pare contratto ci fosse nella Fiorentina, e disse a tutti: ma vi rendete conto che le nostre mogli ci stanno guardando? Ecco, questo disse Scirea in quel momento, nel pieno, no, della tensione di una rissa in campo. Torniamo agli stadi, Marco, e alle ultime normative. Sì, proprio per evitare che quelle curve siano ancora popolate di personaggi di questo tipo, sta finalmente andando in porto questo progetto fantomatico della tessera del tifoso, con buona pace di tanti ultra o presunti tali che continuano a protestare contro l'introduzione di questo strumento. Tra l'altro credo sia confermata per sabato prossimo a Roma una manifestazione degli ultra, appunto, di vari club contro la tessera del tifoso. Intanto il ministro dell'Interno Maroni ha chiarito che non ci saranno più proroghe, che questo è lo strumento che servirà a riavvicinare le famiglie agli stadi, ad allontanare i delinquenti, e che dal 1 gennaio 2010, dopo le due proroghe che ci sono state, si punterà decisamente sulla tessera del tifoso. Abbiamo preparato una scheda per provare a far capire esattamente, anche a me per esempio, che giuro non ho ancora capito nulla, in che cosa consiste esattamente. Sentiamo. La tolleranza zero contro le frange del tifo violento si è tradotta in questi anni in misure sempre più restrittive. In particolare, dal febbraio 2007, con il decreto Pisanu, sono stati adottati i biglietti nominativi, i tornelli, la vigilanza degli steward, fino alla più recente tessera del tifoso. A negare l'accesso agli stadi ai delinquenti dovranno essere le stesse società con l'aiuto delle questure. Solo da pochi giorni, però, è stato approvato il regolamento che consentirà questa collaborazione. Le questure, infatti, dovranno verificare in tempo reale la fedina dei tifosi e dare l'ok alla vendita dei biglietti. Le società, quindi, dovranno sempre comunicare in via preventiva alle questure i nomi dei propri supporter. Ma in quali casi scattano i divieti? Il decreto Pisanu vieta l'accesso allo stadio anzitutto a chi è sottoposto a un DASPO. Ma non potranno acquistare i tagliandi anche le persone che siano state condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. E non ci potranno essere scorciatoie, come spesso accaduto in passato, per aggirare i divieti. Ai tifosi coinvolti in episodi di violenza non potranno essere ceduti neanche biglietti omaggio o a prezzo agevolato e nessun altro tipo di agevolazione. Più o meno si tratta delle stesse ipotesi nelle quali non potrà essere rilasciata la tessera del tifoso. Quest'ultima va negata a chi è sottoposto a un DASPO o è stato condannato nei 5 anni precedenti per reati da stadio. I club che non rispettano questi vincoli rischiano sanzioni fino a 200.000 euro. Ci sono due cose da dire. Da un lato abbiamo questa normativa che da poco è entrata in vigore con 2 anni di ritardo, prevista dal decreto Pisanu, che prevede il controllo preventivo per chi acquista i biglietti. Sostanzialmente il decreto Pisanu stabiliva che non potesse andare allo stadio chi ha un DASPO o chi ha commesso reati legati a manifestazioni sportive. Il problema è che mancava, diciamo, il collegamento diretto tra società e questure, quindi pur essendoci biglietti nominativi nessun filtraggio preventivo poteva essere fatto. Soltanto successivamente, se la società avesse avuto tanta buona volontà, poteva poi mandare i nominativi alla questura e verificare se qualcuno che per esempio ha un divieto di andare allo stadio fosse stato così cretino da poi andare a acquistare un biglietto con la sua carta d'identità. Sostanzialmente da ora, o comunque dalle prossime settimane, quando poi operativamente questo collegamento online tra le società o i concessionari che vendono i biglietti e le questure sarà realizzato, invece si creerà una sorta di accesso, diciamo, di accesso filtrato e preventivo allo stadio. Quindi quando si va ad acquistare un biglietto, la società o il concessionario che li vende potrà inserire il nome, chiedere alla questura se ci sono problemi nel vendere il tagliando a quel personaggio, e la questura darà il nulla osta o meno. Quindi i biglietti ai delinquenti non dovrebbero essere più venduti. Altro discorso è la tessera del tifoso. Anche qui i requisiti sono gli stessi: serve una fedina penale pulita per entrare allo stadio, mi sembra il minimo, e dovrebbe questa tessera del tifoso consentire una sorta di accesso preferenziale allo stadio. Il ministro Maroni l'ha definita una sorta di telepass, quindi dovrebbe esserci una corsia appunto preferenziale per chi ha la tessera del tifoso e per chi quindi ha già avuto sul suo conto i controlli da parte della questura. Questi li ha avuti al momento quando è andato in banca, perché la tessera del tifoso che attualmente hanno Inter e Milan con accordi con Banca Intesa e Banco Popolare di Milano, quando hanno acquisito questa tessera, che è una sorta di carta di credito, hanno subito già il controllo, quindi si ritiene che siano con il terminale della questura, esattamente. A quel punto potranno accedere allo stadio semplicemente passando il badge su uno strumento che evidentemente verrà utilizzato, quindi eviteranno code, eviteranno tornelli, eviteranno tutto, perché sono dei tifosi DOC già, come dire, legittimati dal fatto di avere questa tessera. Potranno seguire la squadra in trasferta, per esempio il Milan potrà, anche quando ci saranno i divieti di acquisto dei tagliandi in altre province, potrà, insomma, se ha dei tifosi in un'altra provincia, far sì che questi acquistino tranquillamente nella loro banca il biglietto e poi si rechino allo stadio o a Milano o dove il Milan gioca o l'Inter gioca, insomma. Quindi c'è evidentemente un sistema che dovrebbe facilitare l'accesso allo stadio. Che è schedatura o meno, questo ecco, questo è un altro paio, questo è un altro paio di maniche, e anche di questo si è parlato in termini anche abbastanza roventi qualche giorno fa. Può darsi che, dato che abbiamo alcuni ascoltatori in attesa, sentiamoli, perché può anche darsi che qualcuno di loro proprio qui voglia arrivare, e a quel punto rientervieni. Sergio, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto non le voglio fare i complimenti per la trasmissione. Ecco, bravo, risparmiamoli che è tutto tempo guadagnato. Dica, Sergio. Sì. Senta, no, volevo fare un piccolo ricordo di Scirea. Io sono abbastanza grande da ricordare con che signorilità e con che pulizia giocava, e era proprio lo specchio della persona, secondo me. E niente, poi ho sentito che è intitolata la curva dello stadio per Evano Scirea. Io volevo fare una proposta a questo punto un po' estemporanea, di intitolare addirittura lo stadio delle Alpi a Scirea. Questo nome sinceramente non mi sembra molto adatto a uno stadio di calcio. Per il resto niente, era solo un ricordo così di Gaetano Scirea, che dovrebbe essere forse, una parola brutta, più sponsorizzato a livello di immagine, proprio, ecco, per Sergio, la sua è un'intenzione nobilissima, ma la parola non è proprio, l'ha detto lei stesso, la parola non è più indicata per ricordare il grande Gai, perché questo era il suo soprannome, intendiamoci, ecco. Ma insomma, altra roba. Roberto Alessandria, buongiorno. Buon pomeriggio. Dica. Io telefono per un aneddoto, in merito al signor Scirea. sono stato invitato parecchi anni or sono a una cena dove c'erano diversi tifosi della Juventus e tre giocatori, lo stesso Scirea, Tacconi e Favero. Bisogna ricordare che in quel momento Scirea aveva vinto tutto. Arrivavano da Tokyo, Favero firmava autografi a tutti perché arrivava a Torino da Avellino via Tokyo e per lui aveva toccato il cielo con un dito. Tacconi preferibilmente alle signore, Scirea a tutti. Dopo la cena qualcuno voleva fare delle domande e a Scirea hanno chiesto 8-10 volte la stessa cosa. Cosa ha provato quando ha vinto il mondiale? Francamente io dopo la terza volta l'avrei mandato a quel paese. Lui con una pazienza, un'educazione, una signorilità encomiabili ha risposto a tutti. Certo. Una cosa veramente da pelle d'oca. Io me lo ricorderò per tutta la vita. Grazie, grazie Roberto. Se vuole posso ricambiare con un aneddoto io che mi sbalordì. Parliamo dell'85, era la vigilia della partita che poi fu la più drammatica di tutti i tempi, cioè la vigilia di Juventus-Liverpool all'Aizel. Parlando ricostruendo qualcosa e parlando a lungo con Scirea, a un certo punto partimmo dalle sue origini, da quando era giovane, e lui mi disse che la più grande, dunque lui era già stato campione del mondo, aveva già vinto tutto, mi disse che la più grande emozione della sua vita calcistica non era stata sul campo ma era stata in una tribuna, ed era stata quando lui, interista, all'età di 11 anni aveva assistito a Inter-Liverpool, da lì la connection, no? Visto che stava per affrontare il Liverpool, a San Siro, la famosa rimonta del 3-0 con il gol di Peiro eccetera, aveva tra il suo pubblico un Gaetano Scirea undicenne che aveva ottenuto questo regalo pazzesco da suo padre di essere accompagnato allo stadio a vedere quella che allora era la sua squadra del cuore. A distanza di tanti anni mi raccontò questa emozione con un trasporto assolutamente incredibile per uno che nel frattempo era diventato grande almeno quanto quelli di cui mi stava parlando, e questo le dà un'idea di chi fosse Gaetano. Torniamo con qualche altro intervento di ascoltatori. Massimo ha chiamato da Ferrara, per esempio. Buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sulla questione della tessera del tifoso. Sì. Io chiamo da Ferrara, quindi una realtà abbastanza piccola, anche se con un passato glorioso. Sono un tifoso molto appassionato, nel senso che frequento la curva da anni, sono incensurato perché la mia mentalità mi impone fortunatamente di essermi mai portato oltre a quello che è la passione per il tifo. L'unica cosa che dico è che insomma questa tessera del tifoso mi sembra un deterrente che non servirà a niente, perché quello che vedo sono continue lunghe code agli stadi o per andare in trasferta, per comunque quegli appassionati che vogliono solo seguire la loro strada. I tifosi violenti vanno puniti con pene severe, come si sarebbe dovuto sempre fare, con li prendi, li metti in galera e gli dai una pena. Fine. Tutti i tifosi appassionati vengono... Io domenica sono rimasto fuori dallo stadio di Ravenna per un'ora e mezza, non ho sentito la partita, per protesta, perché non mi volevano far entrare con uno stendardo con scritto Forza Spal. Perché dicevano che le norme lo impediscono, e questo è assurdo. E io sono un tifoso incensurato. Solo sì, Massimo, io la condivido. Tenga conto che negli stadi europei non ci sono stendardi e si cappa bene lo stesso, no? Capito, Garanzini, però stiamo parlando di se c'è un tifoso violento con con la tecnologia di oggi, lo prendi, lo metti in galera per quello che fa, come si sarebbe dovuto fare 10-15 anni fa. Sì, ma su questo è un altro discorso. Sto dicendo che se in questo momento c'è una regola per cui non si portano bandiere per via delle aste, eccetera, eccetera, non si portano bandiere, secondo me ha fatto benissimo tenerla fuori. Poi mi dispiace per lei personalmente, sia ben chiaro, non è che voglio infierire. Dico che se non si può, non si può. Trovo giusto, vedo gli stadi inglesi, vedo quelli tedeschi, vedo quelli spagnoli, non c'è una bandiera, non c'è uno striscione, non c'è una mazza di niente, e mi sembrano meravigliosi da un punto di vista cromatico, ambientale e tutto il resto, senza bisogno di tutti i nostri orpelli, no? Di cui mi pare, Marco, si possa anche fare a meno. Sì, gli striscioni devono essere autorizzati preventivamente e a quel punto possono essere portati, anche se magari In questo caso c'è stato un grande controllo, in altri casi purtroppo non c'è e gli striscioni continuano comunque ad apparire. Mi sembra che ci siano altri settori oggi in cui la libertà di espressione di stampa è leggermente più messa in discussione che non quella degli ultra, così a grandi linee. Ecco, però può darsi che mi sbaglio o magari che ci sbagliamo. Dicevamo prima di questa... dell'ottica in cui si può, in cui è perfettamente lecito vedere la tessera del tifoso, che da un lato, scrive un ascoltatore, mi pare di capire quello che dite, che è come uno skip pass stagionale che porta solo vantaggi e non pone problemi. Va bene, a monte qualche problemino forse di... Lo ha creato nell'ultima versione, sembra voler essere appunto uno strumento per facilitare l'ingresso e per evitare quelle code e per evitare appunto di continuare ad allontanare gli spettatori dagli stadi. Esiste in Inghilterra, dove pure qualche episodio di violenza è riapparso negli ultimi tempi, un sistema molto semplice: ognuno ha il suo biglietto che compra con i suoi documenti, ha il suo posto assegnato, va a sedersi in quel posto, ci sono le telecamere che lo riprendono e quindi c'è un forte disincentivo a commettere qualsiasi gesto, qualsiasi azione di illecita. In Italia esistono i biglietti nominativi, non esisteva il modo di essere certi prima che chi aveva acquistato quel biglietto non fosse appunto un delinquente. Ora questo sistema c'è, ci sono i tornelli che dovrebbero garantire il filtraggio, in teoria ciascuno dovrebbe avere un posto assegnato e quindi dovrebbe scattare il fenomeno delle riprese del Grande Fratello, se vogliamo, ma dovrebbe essere un elemento per garantire sicurezza. Il problema è che chiunque frequenti lo stadio sa che, salvo in qualche settore da qualche parte, il rispetto dell'assegnazione dei posti è un principio assolutamente aleatorio nel nostro paese. E opinabile assai. Per non essere critici sempre, stiamo cercando di avere una prospettiva positiva, si sta cercando di europeizzare anche il modo di vivere lo stadio in Italia, con questi controlli, con stadi privati, avveniristici, che le società dovranno prima o poi costruire. C'è una legge in Parlamento che sta facendo il suo percorso. Cercherei di avere, farà l'area di settembre, ma insomma di avere uno spirito positivo. Poi vediamo se a gennaio ha davvero prodotto qualche risultato o meno. Sì, perché, e tolgo ancora un attimo di spazio a due ascoltatori che sono già in attesa, perché in linea puramente teorica, diciamo astratta, ma in linea di principio però, e i principi insomma qualcosina rappresentano pure, a me è toccato quest'estate trovarmi d'accordo con Zamparini, cosa che mi ha creato una crisi di identità non da poco, ma quando Zamparini ha osservato, non solo lui, ma lui con particolare forza, come sempre d'altra parte, coi muscoli, quando dice che in una società civile o in un paese civile si schedano i delinquenti e non si schedano le persone per bene, mentre la tessera del tifoso impone la schedatura preventiva della persona per bene, insomma, in punto di diritto tutti i torti non li ha, evidentemente no. Però adesso anche i biglietti, anche chi va a acquistare semplicemente un biglietto e quindi non vuole la tessera del tifoso sarà schedato, sia pure temporaneamente ai fini della verifica, ma anche lì i suoi dati rimarranno, insomma. E mi sembra un po' velleitario ritenere oggi che non si debba essere individuati in una banca dati, miriadi e non è questo il problema, a mio avviso. No, difatti, fermo restando un'altra cosa, che comunque se c'è un settore della nostra vita pubblica in cui viviamo in emergenza e ormai da tanti anni è il calcio, ed è il calcio violento. Quindi se c'è una misura di questo genere che indubbiamente, ripeto, in punta di diritto di ragionamento, in punto non è... delle più accettabili, però... non è nemmeno una legge speciale di polizia, è un telepass, dai, mettiamola così. Sentiamo Mirko da Pescara, buongiorno. Buongiorno, volevo partecipare al ricordo di Gaetano Scirea con due aneddoti. In un'era mediatica totalmente diversa, era, se non l'unico, uno dei pochi che ringraziava il giornalista. Vero, lo ricordo. Vero. E calcisticamente un colpo di tacco in area tedesca nella finale che vincemmo, insomma, sono due cose che lo rendono veramente straordinario. Ascolto per radio. Grazie, gliene aggiungo un'altra: quel colpo di tacco lì e il mancato colpo di petto al francese che costruì l'azione del primo gol di Italia-Francia in Argentina. L'Italia arriva in Argentina non certamente la favorita, ma insomma con una squadra che ha qualche ambizione da avere. Scirea non debutta in assoluto, ma poiché si è infortunato il libero titolare Facchetti al tramonto della sua carriera, poco prima dell'avventura mondiale, Scirea in pratica debutta da leader difensivo in quella partita con la Francia e dopo 15 secondi fugge Six sulla sinistra, esattamente davanti alle panchine, e Scirea, che gli sta tagliando la strada, è l'unico giocatore al mondo che, avendo capito che l'avrebbe a quella velocità e per quella dinamica l'avrebbe appiccicato sulla rete metallica, anche se soltanto fosse intervenuto col petto e non con la gamba, si è astenuto per evitare un fallaccio, perché sarebbe stato certamente un fallaccio, ma si è astenuto per educazione, per lealtà. Il problema è che ha preso gol e questo a maggior ragione lo ha fatto sentire responsabile, più coinvolto ancora nel diventare uno dei migliori in campo per guidare la rimonta dopo. Ma uno che ha giocato tutto il tempo che ha giocato lui da centrocampista prima e da libero poi, e che si è trovato al fianco di grandi giocatori ma anche di grandi energumeni in certe fasi, e penso a Brio, Scirea ha rappresentato veramente la correttezza fatta persona, perché non solo non è mai stato espulso, ma io credo che, non so, sarà stato ammonito forse due o tre volte proprio per salvare la statistica. Un giocatore incredibile. Massimo, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie, bentornato innanzitutto. Volevo chiederle, siccome io volevo portare anche mia figlia allo stadio al rientro in campionato con l'Inter Parma, se devo fare qualcosa, perché io volevo acquistare i biglietti online, ma da quest'anno c'è... è la stessa cosa, o visto che non comunque abbonamento? Massimo, sono 8 anni che mi astengo dagli stadi e la mia misura, cioè la mia decisione è definitiva, sicché io sono l'ultima persona al mondo che le può dare le indicazioni. C'è qua Marco Bellinazzo, che diciamo a sto ragazzo? Che se non ci sono particolari restrizioni sulla prossima partita dell'Inter Parma, non credo che ce ne siano. Non lo so, se non ci sono i reduci dell'asilo di Parma di un anno e mezzo fa, non dovrebbe esserci. Mi auguro di no per lui, a quel punto non ci dovrebbero essere problemi nell'acquisto di biglietti con i controlli che abbiamo ricordato. E quindi Massimo è ancora in linea? No, non è ancora quindi in linea. Anche, sì. Anche acquistandoli online, cioè io tranquillamente senza fare niente, è tutto uguale come l'anno scorso? Immagino di sì, per il momento non ci sono particolari limitazioni nell'acquisto online dei biglietti. Quanti anni ha la bimba? 7. Non ha subito DASPO, no? Siamo... No, ma io adesso lui fa lo spiritoso. Io, siamo sicuri che lei è una bimba di 7 anni, la porta allo stadio? Sicuramente. Bene, ma io sono non voglio mica... Non ci penserei nemmeno, ripeto, però lei fa molto bene. Dobbiamo riportare le famiglie allo stadio, si continua a dire, no? Io dico che non siamo ancora un pochino... Ma visto che c'è questo entusiasmo, l'Inter potrebbe regalare una tessera al tifoso onorario anche alla bambina e sponsorizzare questo progetto, sarebbe una bella occasione. Questo progetto famiglia. Allora, grazie a Marco Bellinazzo per la sua partecipazione, che avrà una replica immediata nella prossima settimana, perché abbiamo solo accennato alcuni degli argomenti. Grazie a Flavio Suardi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Non c'è il giornale radio, vi ricordo, fino alla prossima edizione alle ore 17. Buon pomeriggio.